se non famo, fai sempre figlia e figliastro, ma se aggiungiamo in ferma, no, con te non voglio venire, io per te non so niente, sono una perdita di tempo, ma se vuoi da cattena, dimmi quello che avevi. Tutte bentornati e bentornate a Battiture, sguardo di griglia radicale sul sistema carcere, programma radiofonico che va in onda, vi ricordiamo, ogni mercoledì dalle 19 alle 20. E perché si valeno, si una rosa che può. C'era il zoccolo, con te non voglio venire, io per te non so niente, sono una perdita di tempo, ma si vuole da catena, dimmi quello che avevi. Bentornati e bentornate, dicevamo, a questa nuova puntata di Battiture dopo un periodo di stop forzato, quindi continueremo, riprenderemo insomma a darvi delle informazioni e delle news riguardo al sistema carcere e insomma quindi reiniziamo dandovi un po' delle ultime notizie che ci arrivano dal mondo carcerario, per poi avere un contributo telefonico di un compagno con il quale andremo ad approfondire una questione in particolare di cui appunto parleremo dopo al momento della telefonata. La prima notizia ci arriva dal carcere di Cuneo, in cui praticamente il giorno 20 marzo un detenuto, Pasquale, è stato trovato morto nella sua cella, una persona già psicologicamente fragile, per cui la sua morte è stata immediatamente archiviata come uno dei purtroppo numerosissimi suicidi che si verificano nelle carceri italiane quotidianamente, quindi diciamo, non è stata fatta nessuna ulteriore indagine sulle cause e sulle motivazioni, se non che qualche giorno dopo la sorella di Pasquale, Lucia, ha praticamente ricevuto una lettera dall'interno del carcere di una persona che chiaramente è voluta rimanere anonima, ovviamente per paura di ritorsioni da parte del personale carcerario, e dove questa persona, in questa lettera, insomma, si diceva che Pasquale dal momento stesso del suo ingresso in carcere fino al 20 marzo, giorno in cui appunto è stato trovato morto, è stato soggetto a continue vessazioni fisiche, psicologiche, e sia di notte che di giorno, quindi questo chiaramente ci fa capire che innanzitutto getta delle ombre sul fatto che si sia trattato di un suicidio, ma ci fa capire anche insomma, il perché poi nelle carceri appunto si verificano tanti suicidi. Ricordiamo, già quest'anno siamo già a quota 17 suicidi da inizio anno, che è un numero che ci sembra francamente enorme. Un'altra notizia ci arriva da Juan, un compagno anarchico che è rinchiuso nella sezione di alta sicurezza del carcere di Terni, e che il 12 aprile ha iniziato uno sciopero della fame oltranza in solidarietà con tutte le persone detenute in lotta dentro le prigioni, e in seguito, diciamo, anche Beppe Bruna, un altro compagno anarchico detenuto, ha comunicato che si unisce allo sciopero della fame di Juan dal 26 marzo, sciopero che anche lui, insomma, ha intrapreso a oltranza, e la motivazione è chiaramente a sostegno di tutti i compagni e le compagne anarchiche detenute nelle carceri italiane. E perché se ne vanno, fai sempre figli e figliastro, ma se c'è un mamma che ferma, non so niente, sono una perdita di tempo. Ma si vuole da cattena, dimmi che le chiavi. Un'altra notizia ci arriva dal carcere di Santa Maria Capua Vetere, o meglio da parte di un ex detenuto del carcere di Santa Maria Capua Vetere, che scontata la sua pena praticamente ha sporto denuncia, in quanto era costretto a vivere in una cella insieme ad altre 5 persone quando le celle sono predisposte ed omologate per una capienza massima di 4 persone. Quindi la Cassazione ha accolto questa denuncia e ha confermato il risarcimento. Chiaramente parliamo di un risarcimento quantificato in 2.944 euro, quindi una cifra totalmente irrisoria, ammesso che poi ci sia, insomma, una cifra che valga la libertà di una persona. Francamente pensiamo di no. Si balena, si una rosa che pogna, tiene la faccia rizzoccola, con te non voglio venire, io te non so niente, sono una perdita di tempo, ma si vuole da cattena, dimmi che le chiavi. Un'altra notizia ci arriva dal carcere di Vicenza, dove un detenuto 46enne si è tolto la vita, e praticamente quando è scattato l'allarme è stato inutile qualsiasi tentativo di soccorrerlo, in quanto per lui non c'era più nulla da fare. Ricordiamo che si trattava di una persona arrestata da poco e che era praticamente in regime di isolamento per il Covid, appunto per il motivo Covid. Quindi chiaramente insomma, sottolineiamo come questo ingresso in carcere, già traumatico normalmente, venga amplificato ulteriormente per le persone che diciamo, una volta arrestate si ritrovano già in regime di isolamento a causa del Covid, quindi magari sono ancora più fragili di quanto non lo siano normalmente in quella situazione. E quindi ripetiamo, appunto, in particolare in quest'anno abbiamo visto che il numero di suicidi sta aumentando in maniera esponenziale. Bene, è venuto il momento di ascoltare il primo pezzo di questa puntata, puntata che sarà un po' più breve, insomma abbiamo bisogno di un po' di tempo, diciamo, per tornare al regime, e ascoltiamo quindi il primo brano, dicevo, che è Aquile di Ketama. Andare in alto, toccare le stelle. Veniamo dal basso, quindi guardati le spalle. 20.000 al collo e non mi ha mai dato niente. Quando ho cominciato avevo solo le mie palle. Aquile, Armani, Iceberg, Titanic, Cowboy, Indiani. Cocaine in alto, toccare le stelle. Veniamo dal basso, quindi guardati le spalle. 20.000 al collo e non mi ha mai fregato niente. Quando ho cominciato avevo solo le mie palle. Cash, io non voglio problemi. Lei mi vuole più baby. Foto, flash, pussy, splash, euro, cash. Il mio amico è pieno di sangue e ride. Il dolore è un fratello e so che cosa vuol dire. Collezionando se abbiamo la dinamite. Liberate Nico, resta pace corto. Sono leggenda e ancora non sono morto. Carichi pendenti come gioiali ancora i fornelli. Cucinando quella, facendo quelli. Aquile, Armani, Iceberg, Titanic, Cowboy, Indiani, cocaina, maglia rosa, Pantani. Aquile, Armani, Iceberg, Titanic, Cowboy, Indiani, cocaina, maglia rosa, Pantani. Voglio andare in alto, toccare le stelle. Veniamo dal basso, quindi guardati le spalle. 20.000 al collo e non mi ha mai fregato niente. Quando ho cominciato avevo solo le mie palle. Bene, ora abbiamo un'altra notizia che ci è arrivata tra l'altro da poco, è praticamente relativa al carcere di Foggia, dove praticamente si registrano ad oggi 69 positivi al Covid, del cluster più grande della Puglia, e in ospedale praticamente ci sono 4 dei 58 detenuti contagiati. Quindi tra le persone contagiate praticamente ci sono 11 agenti, quindi 58 detenuti. Invece un solo caso di Covid è stato accettato nel vicino carcere di San Severo e che ha dovuto far ricorso alle cure ospedaliere. Negli altri penitenziari pugliesi pare che la situazione sia un po' meno grave, insomma, quindi meno casi di contagio, però insomma, ci pare piuttosto preoccupante un po' in generale in tutte le carceri italiane la situazione Covid. Io non voglio problemi, lei mi vuole più baby. Foto, flash, pussy splash, euro cash. Bene, ora ci occupiamo di un tema che abbiamo già trattato altre volte, diciamo, quello dei flussi migratori e dell'impatto che hanno sia sul sistema carcerario istituzionale, sia su quello parallelo, che è quello dei CPR e dei centri di detenzione. In particolare ci occuperemo, grazie al contributo di un compagno, un contributo telefonico, che ci parlerà un po' degli ultimi sviluppi riguardo alla questione sbarchi sulla rotta libica, praticamente, che ad oggi risulta la rotta su cui muoiono più persone, la più pericolosa, e nonostante tutto ciò l'unica risposta politica da parte delle istituzioni è stata quella di insomma rinforzare i rapporti con la Libia, rapporti economici, e andare insomma ad omaggiare con ripetute visite insomma le autorità libiche. Ok, quindi facciamo partire la telefonata. Ciao. Ciao a tutte e tutti. Allora, purtroppo si è ripreso a parlare della Libia nelle ultime settimane, e purtroppo solo perché ci sono state ennesime stragi in mare. La settimana scorsa è affondata imbarcazione con 130 persone a bordo, e la notizia era circolata già più di 24 ore prima, perché alcune associazioni come Alarm Phone, che si occupa appunto del sostegno alle persone in difficoltà in mare, hanno lanciato l'allarme avvertendo quindi la Guardia Costiera italiana, maltese e libica. Eppure in 24 ore nessuno si è recato a soccorrere lì, pur sapendo la posizione, e quindi queste persone, quando si è giunti sul posto, hanno tutte decedute. È stata una delle stragi più gravi di questo 2021, ma non l'ultima. Infatti anche questa settimana, purtroppo, negli scorsi giorni, il 2 e il 3 maggio, altre due imbarcazioni sono naufragate al largo della Libia, e circa una sessantina di persone almeno sono morte. Il discorso appunto si è ricominciato a parlare di quanto sta avvenendo nella rotta migratoria del Mediterraneo centrale, del ruolo della Libia, del ruolo dell'Italia e dell'Unione Europea, ripetendo più o meno sempre le stesse solite cose, che non è che siano cambiate moltissimo. Infatti dopo la strage di 130 persone c'è stata questa dichiarazione della responsabile della commissaria europea all'asilo, Ylva Johansen, che ha ammesso che questa strage di 130 persone è una tragedia europea, e però l'ha fatto nel momento stesso in cui teneva questa conferenza stampa, sulla presentazione del nuovo piano europeo sui rimpatri, che verrà presentato poi al Parlamento europeo e sarà votato nei prossimi mesi. Un piano che prevede la facilitazione dei rimpatri, cosiddetti rimpatri volontari, in quanto secondo la Commissione sono più efficaci e più economici, perché riportare una persona volontariamente, tra virgolette, dopo magari ne parliamo, nel proprio sì. paese di origine costa un terzo in meno rispetto a deportarla attraverso una deportazione forzata. Però appunto, se vogliamo dirla tutta, i rimpatri volontari non esistono, si tratta appunto di persone la cui vita è stata resa impossibile dalle leggi sull'immigrazione europea, sono irregolari sul territorio, quindi non hanno nessun diritto ad alloggio, cure mediche, istruzione, lavoro, e quando gli chiudi tutte le strade, per qualcuno purtroppo l'unica soluzione è quella là di accettare dei soldi per tornare al proprio paese. Quindi di volontario c'è tutto, fuorché diciamo la libertà, certo, delle persone di poter decidere. Certo, Chiaramente, diciamo, noi abbiamo scelto di parlare di questa cosa perché tutto questo, cioè diciamo, la presenza di queste rotte migratorie, incide comunque anche sulla sul carcere, sia a livello di centri di detenzione, appunto, sia sulla sul carcere vero e proprio, diciamo. Quindi, ecco, magari possiamo un po' parlare delle conseguenze che questi fenomeni hanno poi sulla detenzione, sia in Italia sia in Libia, a questo punto. Sì, dobbiamo sottolineare che quella che viene chiamata gestione europea delle migrazioni, in realtà ha tra i suoi fondamenti, se non il fondamento principale, due aspetti: i respingimenti e la detenzione. La detenzione che avviene non solo in Libia, nei famigerati lager dove ci sono migliaia di persone. Pochi giorni fa è uscito tra l'altro anche il report dell'UNICEF che calcola che nei centri di detenzione libici ci sono quelli ufficiali, perché la maggior parte sono non ufficiali, anche se poi le due cose si confondono visto che sono co-gestite da milizie e autorità nazionali. Ci sono almeno 1100 minori, quindi neonati, bambini e minorenni. È circa 5-6 mila persone. Già questi dati non si trovano perché solo quest'anno sono stati respinti, cioè fermati in mare, catturati e riportati indietro nei lager, circa 7 mila persone tra quelle che hanno tentato il viaggio. E l'anno scorso erano stati circa 11 mila. Quindi un altro aspetto è che non si sa che fine facciano le persone. È sicuro che vengono portate in questi centri di detenzione, ma ufficialmente nei centri di detenzione libici, nei lager, sono molti di meno. L'altro aspetto, appunto, è quello là invece della detenzione, che in Italia ha vari aspetti, appunto. La detenzione amministrativa, che riguarda quasi tutte le persone sbarcate in Italia, perché vengono prima e più spesso venivano recluse almeno un mese, ma fino a 90 giorni negli hotspot per l'identificazione e lo smistamento. Adesso, dall'anno scorso, con la scusa della pandemia e quindi con la falsa, diciamo, giustificazione di misure sanitarie, le persone che arrivano in Italia via mare, ma anche quelle via terra, vengono segregate su queste navi che vengono chiamate navi di quarantena, da quarantena, ma nei fatti sono vere e proprie prigioni galleggianti. Infatti vengono recluse su queste navi anche le persone negative al tampone, come sta succedendo in queste ore. Le persone sbarcate alla Sea Watch a Trapani e salvate in questi giorni, circa 400, hanno effettuato tutto il tampone, sono tutte negative al tampone e vengono comunque recluse su queste navi, oppure in centri di accoglienza che si sono trasformati in piccole prigioni, alcuni per minori come quella di Siculiana in Sicilia, a cui spesso le cronache hanno parlato perché i ragazzi minorenni reclusi anche per mesi l'hanno cercato più volte di fuggire. Altre persone vengono portate direttamente nei CPR o agli aeroporti per essere deportati per direttissima, e quindi moltissime persone in fuga dalla reclusione in Libia si trovano reclusi nuovamente in Italia. Per non parlare di un altro aspetto che è poco considerato, che è stato messo in luce fortunatamente e stranamente da un articolo di un giornalista italiano da poco uscito e poi tradotto in italiano su Internazionale, che parla appunto del ruolo della direzione investigativa antimafia, che negli ultimi anni ha avuto un ruolo sempre più importante nella determinazione delle politiche di contrasto all'immigrazione. E nei fatti quello che è accaduto è che ha applicato all'immigrazione le stesse procedure previste contro la criminalità organizzata, per cui tutte le persone a bordo dei barconi che arrivano in Italia, che in qualsiasi modo erano state, diciamo, viste come attive a bordo dell'imbarcazione, vuoi perché chi guidava un po' il timone, chi guardava la bussola, chi ha telefonato per i soccorsi, o semplicemente anche cose assurde tipo chi distribuiva le bottigliette d'acqua, veniva considerato come uno scafista, un trafficante, e quindi denunciato, arrestato, processato come tale. Ci sono casi veramente emblematici, appunto uno di questi che colpiscono di più è di una persona che è stata condannata come scafiste, come per traffico di esseri umani e non solo, neanche per omicidio, perché sull'imbarcazione che poi è naufragata e quindi sono stati dei morti, era stato identificato come una persona che aveva distribuito le bottigliette d'acqua, e questa è la sua unica imputazione, aveva distribuito le bottigliette d'acqua. Quindi ci sono centinaia di persone che semplicemente erano a bordo di quelle barche, sono state costrette a prendere il timone per la sua sopravvivenza, oppure gli era stato dato un telefonino, non erano certamente chi si arricchisce con questi viaggi, rischiavano la loro vita in prima persona, che sono arrivati in Italia pensando di almeno di essersi salvati, invece sono finiti in carcere, e sono in alcuni casi, diciamo, si è approfondito, diciamo, la questione, e alcuni sono stati poi successivamente scarcerati e riconosciuti come semplici passeggeri. Però questo fa capire, diciamo, cosa ha portato questa criminalizzazione dell'emigrazione e delle persone che migrano, per non parlare poi degli arresti delle persone che continuano a provare a venire in Italia e magari ci riescono dopo essere state espulse. Quindi chi arriva in Italia, che ha già subito un decreto di espulsione e vi ritorna, viene riconosciuto sul database, perché ormai tutte le persone sbarcate vengono fotosegnalate, e si finisce direttamente in carcere. Quindi stiamo parlando di centinaia, se non di migliaia di persone che affollano i nostri carceri, che, a cui veramente si può dire il cui crimine è semplicemente la volontà di lasciare il proprio paese e cercare una vita migliore. E infine, nelle nostre carceri italiane sono piene di persone che per i reati più vari, veramente reati minimi, ubriachezza molesta, piccolissimi furti, cioè questioni di sopravvivenza, sono ancora in carcere, perché molto spesso irregolari, non hanno un'abitazione, una residenza, e quindi non possono usufruire delle misure alternative che appunto prevedono che per esempio i domiciliari c'è bisogno di un alloggio. Quindi a questa gestione dell'emigrazione, per concludere, si riversa pure sul sovraffollamento delle carceri, certo, italiane, certo, sulle condizioni delle carceri italiane, e anche su un vero e proprio apartheid istituzionale, che così come negli Stati Uniti vede la percentuale di persone carcerate tra la popolazione afroamericana maggiore rispetto alla resta della popolazione, o perché è diventata una categoria, è stata sempre una categoria oppressa, anche in Italia si potrebbe fare lo stesso ragionamento, per cui le persone immigrate molto più spesso per un non nulla rischiano il carcere rispetto a un benestante bianco italiano. Certo, poi di fronte a tutto questo direi che anche il caso diciamo di sottolineare, vorrei dire, l'indifferenza della politica istituzionale, ma in realtà non è manco indifferenza, in quanto è vera e propria accondiscendenza verso tutto il sistema di deportazione formato, insomma, dall'Italia e dalla Libia assieme. Quindi perché parliamo della Guardia Costiera libica, che è stata sovvenzionata e anche addestrata, esatto, dall'Italia stessa, quindi abbiamo visto, insomma, anche nel caso del governo neo insediato, insomma, che sono andati i vari ministri a rinsaldare in Libia, in visita per rinsaldare i rapporti economici. Quindi ancora una volta, diciamo, le persone morte in mare vengono sempre dopo i rapporti economici tra gli stati, purtroppo. Eh sì, rapporti che si stanno rafforzando. Infatti nell'ultimo mese e mezzo il nuovo governo italiano si è recato in massa praticamente in Libia. È cominciato il ministro degli esteri Di Maio, che si è recato a Tripoli insieme con l'amministratore delegato di Eni, De Scanzi. E ricordiamo che Eni è la prima multinazionale estera, cioè la multinazionale estera che fa più profitti nell'intera Africa, e in particolare in Libia. Quindi l'Italia è a tutti gli effetti uno dei paesi che più beneficia, diciamo, dello sfruttamento delle risorse libiche e in generale del continente africano. Dopo pochi giorni si è recata anche la Morgese, e infine il primo viaggio all'estero del Presidente del Consiglio Draghi è avvenuto proprio in Libia, e ricordiamo infatti le dichiarazioni di soddisfazione rispetto all'operato della Guardia Costiera libica. E insieme a tutto questo ovviamente si stanno rinsaldando gli storici rapporti economici tra i due paesi, un paese che poi è stato una colonia italiana per tanti anni, e infatti recentemente c'è stato anche il viaggio della ministra degli esteri libica in Italia per aggiornare l'accordo che risale al 2008 tra Berlusconi e Gheddafi, che assicura all'impresa italiana una preferenza negli appalti che avvengono in Libia. Già infatti si è parlato di nuovi appalti da assegnare alle imprese italiane, come per esempio la ricostruzione e l'ammodernamento dell'autostrada costiera che fu costruita al tempo dell'invasione fascista della Libia, e la gestione alla Leonardo, che è la più grossa impresa italiana di armamenti, alla gestione della frontiera sud della Libia, sempre in un'ottica poi di blocco dei flussi migratori, che passa però pure mistificata come lotta al terrorismo, quando nei fatti in realtà i due piani si confondono molto, molto spesso. Quindi gli interessi hanno la meglio su qualsiasi ragionamento che riguardi questi fantasmagorici diritti umani, di cui blaterano anche i politici, ma che nei fatti non passano assolutamente in subordine al costo appunto di decine di migliaia di persone morte in mare e recluse nei campi di concentramento nelle carceri. Ricordiamo infatti che nei primi mesi di quest'anno, nei primi 4 mesi, i morti in mare sulla tratta Libia-Italia sono stati 3,5 volte quelli dello scorso anno. Sono stati circa 500, quando l'anno scorso erano 150. Quindi è stata, era e continua ad essere sempre più e sempre peggio il percorso di migrazione più pericoloso al mondo. Dobbiamo dire che i governi italiani sono responsabili della rotta migratoria più pericolosa, più mortale al mondo. È questa tragedia, che poi non è una tragedia, ma nei fatti è un omicidio di massa, continua, perché ancora continuano i respingimenti, che qualcuno appunto giustamente, secondo me, considera anche questa parola un eufemismo, perché dice: guarda, respingimento è una parola quasi neutrale, no? Sembra che uno è stato respinto. Nei fatti invece abbandonare in mare senza vivere, benzina, acqua, in un mare che magari da lì a poco diventerà non navigabile per via del maltempo, delle persone, significa condannarla a morte. Quindi si tratta di stragi e di crimini contro l'umanità. Questi sono i termini che dovremmo usare, esatto, quando parliamo di queste stragi, non di tragedie, naufragi, come se fossero eventi naturali che dovremmo accettare, tanto più che una delle soluzioni da tempo avallate un po' dalle associazioni, ovviamente in questo caso lo fanno con una forma di riduzione del danno, è quello dei corridoi umanitari. Però questa parola e questo strumento è stato subito fatto proprio dai governanti, perché nei fatti gli converrebbe. Si tratta infatti di portare in sicurezza in Italia poche centinaia di persone rispetto alle migliaia e migliaia, decine di migliaia presenti sulle coste africane, poche decine di persone scelte solo tra alcune nazionalità riconosciute come meritevoli di uno status di rifugiato, e in particolare in condizioni di vulnerabilità. Quindi un contentino, salvarne uno e lasciare 99 nell'inferno dei lager, quando poi le soluzioni sono in realtà semplici. Tutti possiamo verificare che ci sono delle rotte, dei traghetti di Libia che usano i turisti o gli uomini d'affari o semplicemente le persone che vogliono viaggiare, per esempio tra la Tunisia e l'Italia, tra Tunisi e Palermo, Civitavecchia. Un biglietto in media costa 40 euro, cioè questo è il costo di un viaggio in sicurezza. Se fosse possibile però per queste persone che partono dall'Africa poter accedere a questi traghetti, e non possono accedere perché a loro, a differenza nostra, non vengono rilasciati i visti. Quindi anziché parlare di appunto corridoi umanitari, che significa ancora più pesante gestione politica militarizzata dell'immigrazione, dobbiamo parlare di libertà di movimento, cioè permettere alle persone di viaggiare come facciamo, in sicurezza, semplicemente con costi minimi ormai, anche cioè, noi occidentali, noi europei, noi italiani. Questo è il discorso. Infatti, facendo un semplice dei calcoli, semplicemente le navi quarantene che sono state affittate al governo italiano per precludere le persone che arrivano in Italia, sono state rinnovate, è stato rinnovato l'appalto per altri per i mesi estivi da maggio a settembre a un costo di circa 37 milioni di euro. Con quella cifra è uguale a circa 925.000 biglietti per un viaggio Tunisi-Civitavecchia. Cioè stiamo parlando di un milione di persone che potrebbero viaggiare in sicurezza con gli stessi soldi spesi dall'Italia per segregarle sulle navi. Quindi non è una questione economica, non è una questione di logistica, non è una questione di difficoltà di rapporti, semplicemente è una questione di rapporti di forza, di interessi economici e di interessi che le persone che arrivano in Italia ovviamente arrivano con, come si dice, usando un eufemismo anche questo, con le pezze al culo, cioè senza nemmeno un po' di soldi, senza risorse, veramente nemmeno con i panni addosso, perché se le devo cambiare azzuppati come sono, e quindi passano attraverso tutto il processo di selezione nei centri italiani, sono disponibili allo successo, se vengono resi più sfruttabili dalle imprese italiane, perché sono resi appunto sono stati lasciati senza diritti e senza risorse. Questo è il motivo per cui si vuole un filtro alle frontiere e che ci sia appunto una quota di persone irregolari più facilmente sfruttabili. Certo, c'è anche un'ultima cosa che mi permette di aggiungere, che insomma, ha parlato prima di un milione di persone che potrebbero viaggiare in sicurezza per arrivare in Italia. Molto spesso, diciamo, questi numeri vengono usati anche per spaventare un po' l'opinione pubblica, si parla di invasione di massa. Insomma, dobbiamo anche dire che per molte di queste persone l'Italia è solo un punto di passaggio, nel senso che magari vorrebbero, molte di queste persone sono dirette verso altre parti d'Europa, insomma, quindi anche questo fantoccio, questo spauracchio dell'invasione di massa, insomma, è appunto nient'altro che un fantoccio. Sì, infatti anche su questo ci sono dei dati di cui, diciamo, volendo si è ufficialmente a conoscenza, quindi sarebbero facilmente smentibili queste operazioni, diciamo, di terrorismo mediatico su queste presunte invasioni. Per esempio, in Italia fino adesso sono arrivate circa 10-11 mila persone e si parla di invasione. Parliamo di un numero esiguo, cioè. Sicuramente. Tra l'altro, se invece vai a vedere, che ne so, gli arrivi via aereo solo nei due giorni di Pasqua e Pasquetta e solo nell'aeroporto di Catania sono arrivate 6.000 persone, di cui 2.000 stranieri hanno viaggiato dall'aeroporto di Catania in solo quei due giorni. Quindi stiamo parlando appunto di cose non paragonabili, cioè per cui anche dal punto di vista sanitario, cioè le persone che sono arrivate in Italia come turisti, come uomini d'affari, come viaggiatori liberamente, cioè hanno molti meno controlli anche sanitari rispetto alla costrizione di tutte le persone che sbarcano, che vengono tutte quante sottoposte a tampone, tutte quante chiuse per 2 settimane, 3 settimane, 4 settimane, 1 mese, 2 mesi. Quindi sono cose imparagonabili, eppure si grida all'invasione. E ricordando che poi la maggior parte delle immigrazioni avviene nelle aree limitrofe a quelle dei paesi di provenienza, cioè la maggior parte degli emigranti dai paesi africani, per esempio, o asiatici, l'80-85% rimane nei paesi adiacenti, solo un 15% va in un altro continente. E per il caso dell'Italia stiamo parlando appunto di 10.000 persone, ma fosse pure 100.000, che in realtà la maggior parte non vorrebbe nemmeno fermarsi in Italia, quindi se potesse si muoverebbe verso gli altri paesi europei, e ricordiamo che siamo 500 milioni come europei, raggiungendo appunto amici, parenti, o cercando appunto un luogo dove ci sono più opportunità di lavoro. Il fatto che poi rimangono invece bloccati in un paese perché la legge europea prevede che bisogna fare domanda d'asilo nel primo paese di sbarco, li blocca in una situazione che neanche loro volevano. Magari appunto moltissime sono persone francofone che vorrebbero appunto andare in Francia, dove avrebbe anche il vantaggio della lingua e di una cultura più simile, oppure gli anglofoni vorrebbero andare adesso alla Germania, la Svezia, la Gran Bretagna, dove appunto anche loro avrebbero il vantaggio di potersi comprendere meglio, ma sono bloccati dalle leggi italiane, cioè sono le stesse leggi italiane razziste che bloccano queste persone che tutto vorrebbero, forse moltissime di loro, rimanere in Italia. Esatto, perfetto, ti ringraziamo per il tuo intervento molto chiaro ed esauriente e speriamo di sentirci presto. Grazie a voi e a presto. Ciao. Un abbraccio a tutti. Ciao. E a tutti. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Battiture, scusateci di nuovo per i piccoli disagi tecnici, vi promettiamo che miglioreremo col tempo. Mi fanno cenni di scoraggiamento dalla postazione tecnica, però. E niente, quindi vi lasciamo i nostri contatti. Vi ricordo che potete contattarci su Facebook alla pagina Battiture, sul nostro profilo Twitter Battiture 2, su Instagram appunto alla pagina Battiture, e inoltre vi ricordiamo che potete iscrivervi al nostro canale Telegram, dove vi terremo aggiornati sulle notizie che arrivano appunto dall'universo carcerario. Bene, ciao a tutti e tutte, ci rivediamo mercoledì prossimo, andiamo in onda alle 19 su www.radioasilo.org. Se non va, vai sempre figlia e figliastro, ma se c'è un mamma in ferma, con te non voglio venire, io per te non so niente, sono una perdita di tempo, ma se vuoi da cattena, dimmi che la chiave. Si una roccia che un po' mio, tiene a faccia le zoccola.